dentro te. Io solo samba e rumba dentro me. Ed aumentano i battiti e se mi vuoi battimi. Sei una torta ai fiori di Shanghai. All'improvviso con il tuo sapor latino mi allontano, mi avvicino. Ma che caldo, Fernando, Fernando, è sempre Capodanno insieme a te. Mi fai dimenticare il mio ex, tutto gira roulette. Vai più veloce, più più veloce di me. E mi sto innamorando, Fernando, Fernando. Io non volevo un santo, voglio te. Non chiedermi l'amore cos'è, gira volta casche. Vai più veloce, più più veloce, perché con te il mio cuore fa pom pom pom pom pom pom pom. Mi piace pom pom pom pom pom pom pom. Te quiero pom pom pom pom pom pom pom. Fernando, Fernando, ma non sei Ronaldo. Pom pom pom pom pom pom pom. Mi guarda Carlos, mi scrive Osman, mi cerca Onur, mi vuole Kevin, mi stressa Mohammed, mi ama Murat. E se mi chiama Ronaldo ti lascio l'amaro Fernando. Ma che pazzo, Fernando, Fernando, è sempre Capodanno insieme a te. Mi fai dimenticare il mio ex, tutto gira roulette. Vai più veloce, più più veloce di me. Fernando, Fernando, io non volevo un santo, voglio te. Non chiedermi l'amore cos'è, gira volta casche. Vai più veloce perché con te il mio cuore fa pom pom pom pom pom pom pom. Mi piace pom pom pom pom pom pom pom. Te quiero pom pom pom pom pom pom. Fernando, Fernando, ma non sei Ronaldo.